voci nel buio, voci nel buio, la mia poesia. Di notte si avvicina e mi porta in un altro mondo. Ditemi se è tutto vero, ditemi se è un sogno. Sono con lei, sempre con lei, non lo nascondo. E la mia musa abusa della mente di un poeta immondo. Mi tiene forte a sé, non mi lascia, mi stringe fra le braccia. Vuole che sia io a crearle l'apice dei miei pensieri, la chiave dei miei misteri, il primo dei miei desideri e la faccia della mia rabbia. Sa chiudermi in gabbia ma non ne sente il bisogno. Sta a fianco a me in ogni mio sogno, ogni secondo, ogni fottuto verso che scrivo su un foglio. Un mezzo per dir che adesso ho tutto ciò che voglio. Mi sussurra parole dolci ed io le canto perché non ha voce. Ha solo un cuore per farlo, non ha nome. Ha solo suoni per spiegarsi e sarà l'ultima ad abbandonarmi. È la mia poesia, l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa, la mia poesia è l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa. È come un uomo battuto dal vento che non ritrova la bontà non morta, è nel cielo della città in un momento l'aprirsi lungo il muro di una porta. Entra, becca la soglia dell'inconscio, la poesia, la via di fuga, non c'è via di ritorno. Leggo sul tuo volto l'angoscia del mistero, ma che tu lo voglia o meno, il tuo ego ne ha bisogno. È come un sogno ad occhi aperti, non capisci, ti intestardisce, preferisci divertirti nel tuo mondo, anche se ogni giorno rischi di perderti combattendo te stesso e non seguendo il suo percorso. È lei che spesso ti può aiutare, è lei che ti può dare la forza di evitare la disfatta oppure ti disarma, perché un'arma mentale la quale non basta un manuale per imparare a usarla non è mai falsa, è sempre umile, in più è giusta, sa tirarti su. Ma se ti sembra inutile, per cosa cazzo continua ad ascoltarla? Non sai darmi una risposta esatta, forse perché è la mia poesia l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa, la mia poesia l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa, senza la mia poesia va persa, in un attimo è diversa nell'animo di ognuno di noi. E pensa alla mia mania, alla mia poesia che riversa fiumi di significati, incoerenza al battito, dal poeta al lettore, dalla testa al cuore. Lei ha più potere delle semplici parole, la barriera per un'altra dimensione è squarciata dal tratto della penna, il primo atto di essa. Ma adesso lei è sempre qui con me, che ride o pianga, si insinua dentro di me dall'alba fino a notte fonda. È nelle mie lacrime, nei miei sorrisi, è nel mio nome, nel mio amore per lei. Prova a dividerci, coltiva visi intrisi di gioie e dolori, scrive storie infinite fra i limiti di fuochi vuoti, ruba crisi di amori infiniti e li tramuta in suoni, perché non ha occhi per vedere piangere degli scrittori. La mia poesia è l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa, la mia poesia l'unica via per la salvezza. La mia mania, la mia follia, la mia conoscenza, la coerenza fra respiro e battito, l'essenza di un attimo essenza. La mia poesia va persa.